buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui da Radio Cerrano Web e queste sono le schegge impazzite di Mr. Carl Bartleboom, che sarei io poi, insomma. Allora, come va? Ecco, io intanto vi racconto un po' le mie sensazioni della prima puntata. Sono state veramente, in qualche modo sono state elettrizzanti per me, perché non tornavo in radio da anni ed è stata una splendida sensazione. È una sensazione che non credevo di poter provare ancora una volta. È stato così e quindi sono felicissimo di aver rifatto questa scelta. Ci sono state anche dei riscontri abbastanza positivi, sia per quanto riguarda gli ascolti che per quanto riguarda gli incontri, diciamo, anche vis-à-vis con le persone. Quindi vuol dire che un po' siamo sulla strada giusta. Io mi limito esclusivamente a ricordarvi un po' il leitmotiv di questo programma, nel senso che l'ho chiamato schegge impazzite perché in qualche modo non tratteremo sempre un argomento determinato o preordinato, nel senso che non so, solo rock, solo, ma cercheremo anche di spaziare, di vedere qualcosa che va al di fuori e ci affideremo anche un po', tra virgolette, all'improvvisazione, un po' a quello che ci capita di giorno in giorno. Stasera, ad esempio, ci sarà un intervento del mio collega, nonché regista, Carlo, che ci racconterà un po' della sua esperienza romana, e stiamo preparando una serie di incontri con persone che sono nel mondo della musica, ma credo che parleremo anche di poesia, di letteratura. Cercheremo un po' di spaziare, ma ecco, forse la nota caratteristica di questo programma vuole essere anche il territorio, nel senso che cercheremo un po' di portare alla luce, di far emergere persone con talento, con caratteristiche ben precise, che vogliono farsi conoscere a una platea che poi quella internettiana è vastissima. E quindi io vi consiglio un po' di rimanere in ascolto, di seguirci e di magari anche consigliarci, a noi sta bene anche questo. E la serata della scorsa settimana era stata caratterizzata dal 1960, quindi lo scandagliare un po' questo anno, che io lo chiamerei anno di preparazione, nel senso che poi tutto ciò che germogliò nel 68 in qualche modo poi si realizzò nel 69, e di cose importanti nel 69 lo vedremo, ne accaddero veramente. Una di queste ve lo facciamo ascoltare subito. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. first time that she really done me. Oh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. Beh, dicevo, questo brano che abbiamo ascoltato è una di quelle cose che è rimasta nella storia del rock, nella storia della musica in generale, perché quella che abbiamo ascoltato adesso, naturalmente li avete riconosciuti, si tratta dei Beatles, e i ragazzi di Liverpool cosa fecero? Per chiudere la loro carriera nel 1969... allestirono un concerto, ripeto, rimasto nella storia, che praticamente suonarono dal tetto della Apple Records, e la gente col naso all'insù rimase in qualche modo esterrefatta, stupita dal concerto di questi quattro incredibili musicisti. Naturalmente poi l'idea fu ripresa tanti anni dopo dagli U2, che copiarono la cosa, e quello fu praticamente il concerto di chiusura, il concerto, diciamo, di commiato da parte dei Beatles per i propri fans, e a sorpresa, e in qualche modo poi, ecco, quei quattro ragazzi di Liverpool non si riunirono più, e andò così, e la storia andò avanti. Allora, beh, questa erano i famosissimi assoli di Soul Sacrifice, un brano che viene etichettato come rock psichedelico, ma che comunque viene ricordato per, appunto, dicevo, gli assoli di Santana alla chitarra e di Michael Shreve alle percussioni. Un brano arci famoso, ma perché comunque famoso è il luogo, è famoso il contesto in cui questo brano è stato eseguito, e stiamo parlando di Woodstock, e quindi il 1969 sicuramente verrà ricordato come un momento di grossa aggregazione, ma soprattutto dell'esplosione della cosiddetta cultura beat, della cosiddetta cultura di pace e amore. E in un contesto internazionale particolarmente delicato, perché stiamo parlando di un contesto internazionale in cui la guerra del Vietnam la faceva da padrona, e quindi anche la cosiddetta guerra fredda era un po' all'ordine del giorno, ecco. Quindi il moto di ribellione che veniva dalle subculture giovanili era un moto, appunto, di qualcosa che contrastava, appunto, questa cultura di guerra attraverso la musica, soprattutto la musica pop rock, attraverso anche una serie di avvenimenti, tra i quali, appunto, ricordiamo Woodstock memorabile, avvenuta nel 1969, che prende il nome, appunto, dalla cittadina americana nello stato di New York, in cui si riunirono tantissimi ragazzi, ma soprattutto tantissime stelle che poi sarebbero diventate veramente stelle del rock, e fu il primo, in qualche modo, evento che portò poi alla ribalta anche quella che poi, ripeto, sarebbe diventata la subcultura beat, che si contrapponeva in maniera energica, in maniera anche diretta alla cultura di guerra e di violenza di cui era pieno un po' il 68 e il 69, quegli anni lì. E una cosa curiosa che mi piace ricordare è che alcuni anni dopo, in un'intervista alla CBS, Santana disse che prima del concerto aveva assunto mescalina, che era una delle droghe più di moda in quel periodo, e quindi prima della performance aveva assunto mescalina, e credeva che il manico della sua chitarra fosse un serpente, e per evitare di essere morso è dovuto anche aggrapparsi a questo suo manico. Allora, c'è stato questo piccolo sbalzo perché noi ormai siamo in qualche modo socials, come si usa dire adesso. Eravamo impegnati io e Carlo in una brevissima, poi ci ha preso la mano la cosa in una diretta su Facebook. E quindi in questo modo poi ci eravamo dimenticati che il brano stava finendo. E vabbè, ma sono le cose, come si voleva dire un po' di anni fa, il bello della diretta, no? Ma era tutto programmato, sì, ma a noi non è che interessi più di tanto, perché noi usciamo fuori dagli schemi, siamo fuori dai canoni. A noi piace fare questo tipo di radio, questo tipo di musica. Io credo che adesso, nel passaggio che avete ascoltato prima, da quel brano di Santana, Soul Sacrifice, e poi L'Isola di White, cantata in francese, e poi ancora King Crimson, credo che un po' abbiate inquadrato, no, il discorso, o abbiate inquadrato un po' perché questa trasmissione si chiama Schegge Impazzite. Perché comunque, ecco, cerchiamo di dare attraverso flash musicali l'idea del contesto in cui ci si muoveva in quegli anni. Quindi abbiamo ascoltato il brano di Santana, che vi dicevo prima, arrivava da un contesto ben preciso, che era quello di Woodstock, e poi questo brano francese che parlava appunto dell'isola di White, un'isola in cui una contea dell'Inghilterra, quindi un'isola completa, in cui si svolgeva anche qui un grosso ritrovo musicale. Ecco, quella del cantante francese, che adesso vi dico anche come si chiama, perché sinceramente non lo ricordo a memoria, si chiama Michel Delpeche, è la prima versione, ed è una versione che noi italiani probabilmente conosciamo molto di più attraverso la musica, le parole dei Dick Dick in italiano, che era appunto... le parole poi erano state fatte, tra parentesi, da un grosso paroliere come Mogol, ed era anche un modo per farvi capire come noi italiani in quegli anni andavamo un po' al traino, ecco, come le cosiddette, oggi si chiamano cover, andavano molto di moda, perché se ci si accorgeva che un brano piaceva all'estero, poi si copiava, si cambiavano le parole, si adattavano e si mandava in Italia. Per la prima volta, diciamo, il gruppo che forse per la prima volta negli anni 70 riuscì invece a invertire la tendenza e a sfondare all'estero è sicuramente quello della PFM. Adesso King Crimson. Black! Bene, King Crimson è sicuramente forse uno degli album più conosciuti, e forse qualcuno di voi, forse insomma i più anziani lo ricorderanno, è quell'LP con quella bellissima copertina rossa e blu, con quella bocca aperta, quegli occhi strabuzzati, che adesso nel mondo del collezionismo insomma costa un botto di soldi quell'originale. Ma perché è importante questo album, uscito esattamente il 10 ottobre del 1969, perché il primo album di questa band inglese, appunto, ed è sicuramente riconosciuto nel mondo del rock come la prima incisione del progressive rock, che poi ha avuto una serie di altri interpreti, ecco, famosissimi. Vi dicevo, sono anni importanti. Il 69 è un anno importantissimo, non solo sotto il profilo musicale, culturale e sociale, ma anche sotto quello che poi verrà ricordato come l'evento forse di svolta per l'Occidente, no? E lo sbarco sulla Luna. Nel 69, appunto, gli americani riuscirono a far sbarcare per primi, dico per primi perché comunque c'era una grossissima guerra di nervi tra americani e sovietici, appunto, per la conquista della Luna, e furono giornate indimenticabili, furono giornate che sono rimaste nella storia. Un altro anno compiremo, no, fra due anni compiremo il 50° anniversario, se non sbaglio, 19, sì, credo di sì. E quindi sono anni che hanno dato veramente un grosso input all'evoluzione tecnologica. Io mi ricordo, così ero ragazzino, ricordo la nottata dello sbarco come un avvenimento incredibile, poi con tutta quella discussione tra Ruggero Orlando e Tito Stagno che diceva che erano allunati, invece no, insomma, veramente cose che sicuramente anche voi avrete rivisto e rivissuto sulla vostra o attraverso trasmissioni televisive o attraverso anche ricordi ripescati da YouTube o da internet. Ormai la rete è piena. E poi vi dirò anche perché nel 1969 c'entra internet. Intanto ascoltiamoci questo brano che parla anche un po' di avventura. On deck, we run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the cook, let no ships come home to die. No lofty peak, no fortress bold. On the seven seas. Ecco, ecco, i gabbiani io li volevo far sentire tutti. E, no, mi viene un po' di pelle d'oca perché questo era un brano d'apertura, e naturalmente Carlo mi ricordava che il brano di chiusura era affidato a Joe Cocker, quindi potete immaginare come noi ragazzi negli anni 60 trascorrevamo la TV dei ragazzi. Questo era un brano di apertura appunto del programma della TV dei ragazzi che prendeva il nome, che aveva come nome Avventura, e scelsero questo bellissimo brano dei Procolarum. Insomma, un gruppo arcinoto almeno per quel periodo, che in qualche modo dà anche un po' il sintomo, no? di che aria un po' tirava anche in una televisione che negli anni 60, soprattutto quella italiana, veniva considerata ancora un po' bacchettona, un po' in qualche modo non proprio all'avanguardia. E però in questo caso poi, ecco, credo che ci hanno preso. E, mi interessava anche ricordarvi, no, cose così apparentemente futili, che poi in effetti non lo sono, perché nel 1969 c'è Dario Fo che rappresenta per la prima volta Mistero Buffo. Ecco, Mistero Buffo è stato anche questa un'opera di veramente di svolta nel panorama teatrale italiano, un'opera incentrata, veramente un'opera di rottura, incentrata anche su una certa critica, su una certa rompere gli schemi anche sotto questo profilo, soprattutto quello religioso, ma anche sotto il profilo del linguaggio, perché lui usava in questo splendida opera una sorta di linguaggio di Gramblot, o comunque di l'uso di un determinato linguaggio veramente incredibile, che poi l'ha caratterizzato per diverso tempo, ma che comunque gli costò poi l'allontanamento un po' dalle scene cosiddette ufficiali. E quindi ecco un po' gli input che vi sto dando, che sto cercando di darvi, disegnano un disegno degli anni in grosso movimento, qualcuno direbbe anche sommovimento, che poi hanno inciso tantissimo sulla nostra vita futura. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Beh, avete ascoltato questo Raindrops Keep Falling on My Head, e quindi uno potrebbe dire, ma se passi dai King Crimson a questo tipo di musica, sì, perché era l'altra faccia della musica e della cultura pop in quel periodo. Stiamo parlando di un brano che era stato scritto nel 69 appunto da Burt Bacharach per il film Butch Cassidy, e che noi avremmo sentito miliardi di volte, ed è un brano che ha ottenuto sia un Oscar per la migliore canzone, sia anche stato al primo posto nella classifica di Billboard Hot 100, e quindi insomma stiamo parlando di un qualcosa che praticamente entrò tantissimo nel cervello e nelle orecchie di tutto il mondo. Quindi non si può assolutamente essere razzisti culturalmente sotto questo profilo. Bisogna prendere atto di cose che in quel periodo andavano anche su altri, come si usa adesso dire, su altri target, e comunque poi il fatto che questo brano sia resistito negli anni e nel tempo vuol dire che stiamo parlando di un brano veramente inossidabile, si dice nelle migliori radio. Io adesso colgo l'occasione per, vi avevo parlato un po' del mio collega nonché adorato regista Carlo, che in qualche modo un po' è tutta opera sua, nel senso che tutto quello è la mia, io ci metto solo la voce, un po' la ricerca della musica, ma è lui che mi guida, no? sul mixer. Però lui adesso ci riferirà un po', ci dirà qualcosa, perché lui quando è? Domenica? Sì, sabato. Sabato scorso è stato a Roma e ha partecipato al Web Festival Radio. Vogliamo sapere un po' che cosa ci riporti da Roma e come hanno accolto anche questa nostra piccola iniziativa. Allora, intanto complimenti a Giorgio D'Ecclesia che ha organizzato il Web Radio Festival, veramente coraggioso, e diciamo quest'anno veramente ha fatto il botto, tra parentesi, per quanto riguarda le presenze delle web radio. Diciamo che due sono stati i filoni, i temi del Web Radio Festival: uno prettamente tecnico, l'altro diciamo così emozionale. Per quanto riguarda diciamo così l'aspetto tecnico, ci sono tante novità. Nel 2018 tutte le auto si doteranno di connessione e internet, e questo implementerà notevolmente lo sviluppo delle web radio, anche perché novità, questo diciamo così che gli addetti ai lavori già lo sanno, tutte le compagnie telefoniche metteranno sul piatto tariffe flat. Questo non può far altro che agevolare, diciamo così, la diffusione delle web radio, che ricordiamo il 40% di chi possiede uno smartphone ascolta la radio sul web, quindi in auto. Altre cose tecniche, altri aspetti tecnici: un signore di Roma che ha un grandissimo negozio, Radio Novelli, ha sfornato una radio tradizionale, diciamo così, proprio per le web radio, una radio con manico, diciamo così, con tantissime funzioni, compact disc, schermo touchscreen, appunto per ascoltare la web radio. Basta chiamare la web radio ed ecco che la radio inizia a suonare, veramente Complimenti a questo signore Paolo Novelli, che nonostante la sua età, insomma, ha fatto delle disquisizioni tecniche veramente interessanti. Ecco, volevo sottolineare, Carlo, che veramente ci sono degli stregoni in giro che riescono a guardare veramente lontano, persone, lo dico con grande fervore, perché sono degli stregoni e riescono, insomma, a un pochettino anticipare il futuro. Poi c'è l'aspetto emozionale, del quale parleremo quando vuoi. No, io la cosa che più mi... detto fra di noi, insomma, la cosa che più mi inorgoglisce è che comunque, soprattutto tu, perché devo dire che Carlo è stato in qualche modo veramente un personaggio che ci ha creduto, che ci ha lavorato su questa cosa, e poi, insomma, io sono andato dietro di lui, mi sono accodato alla cosa, naturalmente mi piaceva, però la cosa che mi inorgoglisce veramente, e credo che inorgoglisca anche te, è che comunque ancora una volta siamo avanti. Cioè, noi siamo stati quelli che hanno aderito per primo alle vecchie radio libere e ci abbiamo creduto, ci è piaciuto tantissimo, è stata per noi, per me quantomeno, ma credo anche per te, una palestra sia di vita che culturale immensa. Poi, insomma, io non lo nego, sono andato a fare giornalista anche perché comunque avevo iniziato lì e la radio mi ha dato tantissimo. E quindi ancora una volta io mi trovo invece dalla parte della sperimentazione, dalla parte dell'innovazione, e questo sinceramente, ragazzi, mi fa tanto ma tanto piacere, perché comunque adesso io ho un'età in cui qualcuno direbbe: ma no, non stai dalla parte dell'innovazione, potresti stare dalla parte della conservazione. Non è così, a me piace tantissimo questa iniziativa, lo si sente, credo lo riusciate anche a percepire, ma la cosa che più mi piace è che comunque io sto ancora dalla parte, non dico giusta, ma dalla parte dell'innovazione. Tu che dici? Certamente, ecco, diciamo così che nel 92, quando un po' tutte le radio chiusero, diciamo così, ci fu un grande dispiacere per non poter più coltivare una passione per la quale, insomma, abbiamo dato il meglio della nostra gioventù. Insomma, io ho trascorso buona parte della mia gioventù in radio e l'altra ad ascoltare musica, quindi ho detto tutto. Allora, parlo dell'aspetto emozionale per quanto riguarda il festival. Diverse storie veramente bellissime. Il sindaco di Amatrice, che ha parlato della sua web radio e di come la web radio abbia fatto da collante per la sua comunità, gestire le emergenze, le priorità, insomma, parlare alla gente ed espletare, insomma, tutte, spiegare tutte le problematiche del momento. Infatti il sindaco ha detto: ogni comune dovrebbe dotarsi di una web radio, però questa è un'altra storia, veramente un'altra storia. E poi c'è la storia della piccola web radio veneta. Un tecnico di alta frequenza va in Africa per installare una radio importante, quindi un impianto di alta frequenza, e scopre che in quella parte dell'Africa è famosissima una piccola web radio del Veneto, tanto che la Barilla, diciamo così, commissiona uno spot in lingua africana per questa web radio. Poi il ritorno importantissimo sul web di Radio Out, la radio di Peppino Impastato, personaggio che la maggior parte di voi conoscerà, ucciso dalla mafia, che insomma con la radio negli anni 70 non le mandava a dire. Ecco, la domanda che ci siamo fatti, bene, è questa: Peppino Impastato avrebbe aperto, se fosse stato vivo, una web radio? La risposta scontata, sì. Il cofondatore di Radio Out non fa altro, ci ha spiegato, che tirare dentro ragazzi, che è un pochettino quello che vogliamo fare noi, perché noi ormai, non dico che abbiamo fatto il nostro tempo, però ci farebbe piacere se i ragazzi, diciamo così, si mettessero davanti al microfono per provare. Quindi lascio la parola a Carlo, passiamo direttamente alla musica. Grazie a tutti e buonasera. Here Comes the Sun è una canzone straconosciuta e ancora una volta un po' i Beatles la fanno da padrona in questi anni, anche se dicevamo prima che è l'anno in cui i Beatles si sciolgono e che decidono ognuno di prendere la propria strada. È particolare la storia di questo brano perché comunque stiamo parlando di un periodo tra il 68 e il 69 in cui, questo è un brano scritto da George Harrison, in cui lo stesso Harrison stava passando un periodo un po' burrascoso per via un po' delle registrazioni del White Album e poi anche di quelle di Let It Be, di cui non erano assolutamente lui non era assolutamente soddisfatto, tant'è che poi lasciò temporaneamente il gruppo e poi era stato anche trovato in possesso di marijuana, quindi insomma non era un periodo propriamente, come si suol dire, eccezionale. E proprio nel 69, in una giornata di primavera, pare che Harrison, invece di andare a quella che definiva una noiosissima riunione per affari burocratici, appunto della neonata Apple, si decise di andare a casa di Eric Clapton e fargli ascoltare alcuni nastri. E nel momento in cui finirono di ascoltare questi nastri, i due si misero nel giardino della villa di Clapton, dove il sole arrivava forte e quindi appunto George venne in qualche modo ispirato da questa situazione, e da qui nacque, men che non si dica, questo splendido brano che poi è uno dei più conosciuti. Ma c'è anche un altro ma. Questo brano fa parte del dell'LP, si chiamava così una volta, Abbey Road. Io sono andato a Abbey Road, quindi come molti forse di voi mi sono fatto pure la foto sulle famose strisce pedonali che sono di fronte alla sala d'incisione utilizzata dai Beatles, e vi posso assicurare che è comunque una sorta di come dire, santuario, nel senso che arrivano da tutto il mondo per andare lì, mettere la firma, tant'è che io entrai anche all'interno e mi dicevano quelli dello studio di registrazione, che ancora esiste, che loro sono costretti a dare una mano di bianco ogni settimana, perché poi arrivano lì, mettono la firma e questi ripassano la mano in bianco e c'è questo via vai di gente. Ma dicevo, la copertina del brano dell'LP Abbey Road è una copertina di cui si è parlato tantissimo, perché non so se lo sapete, ma si è parlato per anni del fatto che Paul McCartney non fosse il vero Paul McCartney, che invece sarebbe morto in un incidente stradale, e i segnali che avrebbero, e quindi quello che poi ha preso il posto del vero Paul McCartney sarebbe un sosia. Questo, i propugnatori di questa teoria poi portavano a loro favore proprio la copertina di questo brano, in cui, se ci fate caso, Paul McCartney è l'unico che attraverso il sosia, vedete un po' voi, attraversa le strisce pedonali scalzo, e in fondo alla strada si vede anche un carro funebre in sosta. Questo per dire come quante leggende e miti, insomma, sono sorti intorno a questo gruppo. Ho preso la curva un po' alla larga, è qui il segno. Ciao. Dunque, sai che ti trovo in grazia, ma cosa guardi? Saluto. Ah, saluti così tu? È un nuovo atteggiamento, così col naso, eh? Vabbè, basta, non parlo più. Cosa canti? Canto... Sei indeciso? No, canto Come bella la città. Ah, Come bella la città, ti lascio, basta. Città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le club sempre più grandi, con i giardini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti, e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. E Carlo, scusami, ma questi finali così bruschi non si può fare non si può fare di meglio. Ah, allora io volevo salutare, intanto cominciamo, no? Volevo salutare un gruppo d'ascolto rumeno, e in particolare voglio salutare Gabriela con una L sola, che probabilmente ci starà ascoltando, anzi sicuramente ci ascolta da Bucarest. Ecco, vedi il bello della web radio, questi ascolti che arrivano da tutto il mondo. Beh, queste sono soddisfazioni, no? Noi prima, ti ricordi, avevamo un range molto più ridotto con le radio in FM. A proposito di FM, io vi voglio ricordare che naturalmente Radio Cerrano Web voi la potete trovare anche su Facebook, su TuneIn, su Radio Garden, su radio.net e su Listen to my Radio, che sono delle piattaforme che vi garantiscono l'ascolto di molte web radio. Diciamo che sono, tra virgolette, un po' web radio selezionate, perché prima ci hanno ascoltati e poi insomma ci hanno inserito sulle loro piattaforme. Quindi basta scaricare delle app, tipo, ecco, dico, quella di TuneIn, quella che uso io. Dopodiché, una volta scaricata l'applicazione sul proprio telefonino, digitare Radio Cerrano Web e la tirano fuori. A quel punto la si può ascoltare anche dal taschino della giacca o del giubbino, perché ci segue per tutta la giornata. Volevo solo dire due parole su questo brano che abbiamo ascoltato, e su Giorgio Gaber, come avete potuto ascoltare, Com'è bella la città, che era un po' uno dei primi brani che prende anche in considerazione un aspetto che adesso noi ci portiamo sul groppone da tantissimi anni, cioè quello della urbanizzazione, quindi della gente che dalle campagne si spostava nelle città, della gente che dal sud si spostava al nord, dello smog, comunque della tutela dell'ambiente, insomma tutte tematiche che in quel periodo sembravano un po' essere sacrificate a quello che era il boom economico e quindi il benessere economico, ma che qualche autore intelligente, non ultimo lo stesso Adriano Celentano, con il ragazzo della Via Gluck o altro, percepivano come un problema che sarebbe prima o poi arrivato in maniera anche preponderante. Ecco, quello di Giorgio Gaber, dicevo che era un brano che coglieva già questi aspetti che ai più sembravano un po' reconditi, un po' stupidi, ma che in effetti poi si sarebbe dimostrato che non erano assolutamente così. Like you, there will never be another one who can do the things you do. Oh, will you give another chance? Will you try a little time? Please stop and you remember we were together anyway. All right. And if you have a certain evening you can lend to me, I'll give it all right back to you. Now how it has to be with you. I know your moves and your mind, and your mind, and your mind, and your mind, and your mind, and your mind, and your mind. You stop and think and wonder just what you'll see out on the train yard, nursing penitentiary. It's gone. I cry out long. Play it, brother. Consider how it will feel, cold grinding grizzly bear jaws hot on your heels. Do you want to stop and whisper if Saturn is sure the whole world's a savior? Who could ever, ever, ever, ever, ever, ever ask for more? Do you remember? Will you stop? Will you stop the pain? Siamo in diretta, siamo in diretta. And there will never be another one like you. There will never be another one who can do the things you do. Oh, will you give another chance? Will you try a little try? Please stop and you remember we were together. And wonder how I must feel out on the meadows while you round the field. I'm alone for you, and I cry. Sweat, look at it. Optical promise. You'll be dead in hell before I'm born. Sure thing. Bridesmaid. The only solution. Isn't it amazing? Cinque anni dopo, voglio anticipare a chi non ti sta ascoltando il tema della serata. Allora salutiamo anche Antonio che ci sta ascoltando, vabbè il cognome non si dice, ma è una questione di privacy, lui lo sa, noi ci ci piace. Erano anni che non riascoltavo, non sentivo Antonio, nel senso che non lo vedevo. Vedete, questi sono i miracoli anche della radio, ritornano amici che magari non si vedevano da anni, non si ascoltavano da anni. Sta cosa fa veramente piacere. È inutile dirvi che quelli che avete ascoltato fino a qualche secondo fa erano i Doors. I Doors sono stati di certo uno dei gruppi più importanti nel panorama rock mondiale. È un gruppo che ha avuto una durata non lunghissima, dal 65 al 73, ma dopo la morte di Jim Morrison, avvenuta nel 71, insomma, il gruppo cominciò un po' a zoppicare e non si espresse più nel migliore dei modi. E d'altra parte erano anni particolarmente bui per quanto riguarda il rock, perché era in voga anche tra quelli che si esprimevano attraverso la psichedelia, anche l'uso di sostanze stupefacenti pesanti, e quindi non tutti sono arrivati in salute al gran finale, come diceva il buon Dalla. E quindi niente, questo brano l'ho voluto riproporre perché cadeva a fagiolo col discorso di Carlo prima per quanto riguarda quella tribù o quel gruppo, quel villaggio africano che ascoltava la web radio veneta. E poi mi ha raccontato anche la storia dello sciamano che ha mandato un bastone alla radio, giusto? E infatti abbiamo inserito questo brano che si chiamava appunto il blues dello sciamano. E quindi niente, ancora parola alla musica. This is Tim Buckley. Float on shiftless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you say, sail to me. Let me enfold you. Here I am, waiting to hold you. Did I dream you? From the sorrow. I am puzzled as the oyster. I am troubled as the tide. Should I stand amid your breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, let me enfold you. Waiting to hold you. Bene, No, magari poi dobbiamo rifare un'altra diretta Facebook, perché ci stiamo divertendo io e Carlo, perché ci stanno arrivando dei messaggi simpaticissimi di amici che, da amici che in qualche modo ci ascoltavano, che ascoltavano la radio quando eravamo nelle radio, nelle frequenze, nelle cosiddette FM, e quindi abbiamo riscoperto Tony, che ha detto, che ha confermato la sua identità, di cui eravamo un po' così, ma poi salutiamo anche il nostro amico, il maestro Luciano, io gliel'ho detto stamattina, noi lo aspettiamo qui anche in occasione delle sue performance o delle sue, come dire, dei suoi, lui è un grosso artista che si muove nell'ambito pittorico, ma dell'arte in generale, ci piacerebbe averlo una volta ospite qui in radio per un po' aprire anche le nostre menti, perché lui è uno che apre le menti, eh? È vero Carlo? Grande, grande appassionato di musica, poi tra parentesi, lui ci ha fatto un saluto che ci ha praticamente inorgoglito, perché su Facebook ci diceva il ritorno degli eroi, e noi sì, un po' eroi ci sentiamo. Mi piaceva riproporvi il brano di prima, perché comunque stiamo parlando di un grossissimo artista che in qualche modo ha influenzato anch'esso un po', anche se per breve tempo non è stato la sua, lui è stato quasi una meteora, Tim Bagley, perché comunque ha influenzato tantissimo la musica rock o blues, insomma lui è stato un po' a metà e poi ha soprattutto influenzato tantissimi artisti che sono venuti dopo di lui. La cosa mi piaceva, ecco, questo brano mi piaceva riproporvelo, perché in qualche modo stiamo parlando di un caposaldo, per quelli che amano la musica, che amano il rock, lo sanno meglio di me. E vai, i Rolling Stones comunque sono sempre l'altra faccia, la faccia sporca, la faccia brutta, cattiva del rock. Dalla parte dei Beatles, i Beatles forse rappresentavano, anzi senza forse, sicuramente rappresentavano un po' la faccia, come dire, un po' più melodica, un po' meno graffiante, mentre dall'altra i Rolling Stones rappresentavano un altro modo di fare rock, un po' più aggressivo. Ecco, ci si divideva all'epoca appunto tra i fans dei Beatles e quelli dei Rolling Stones. Entrambi, io posso dire, entrambi hanno dato tantissimo all'evoluzione della musica, perché comunque dobbiamo ricordare sempre questo, e cioè che la musica è una continua sperimentazione, un continuo innalzare l'asticella, e magari progressi o conquiste di cui in determinato momento storico non ci rendiamo conto, poi sicuramente diventeranno conquiste più acquisite, e comunque entreranno a far parte delle nostre culture. A me piace parlare molto, quando parlo di musica, di rock, di subculture, perché comunque spessissimo la musica ha rappresentato una cultura che sta sotto, un qualcosa che di più strisciante, che in qualche modo però riesce a cambiare le persone, riesce a cambiare anche la società, gli stili di vita. Io faccio un esempio per tutti, come lo stile punk, o comunque la subcultura punk, cioè il rifiuto di tutto ciò che era status quo, sia nel vestire, nel fare musica, eccetera, che appunto metteva in scena, se volete, metteva in rilievo l'andare contro un determinato, lo si faceva in maniera estrema sicuramente, però anche lì basti ricordare un nome su tutti, Sex Pistols, ma poi forse ne parleremo in maniera più approfondita nelle prossime puntate di Schegge Impazzite. Subculture che hanno influenzato tantissimo anche gli stili di vita. A volte altri hanno, come il mondo della pubblicità, il mondo del marketing, eccetera, hanno anche utilizzato il mondo della musica, queste subculture per vendere di più. E però è un gioco delle parti che è sempre esistito e sempre esisterà. I was walking through the counters of a national concern, and a cash machine was spitting by my shoulder, and I saw the multitude of faces, honest, rich and clean, as the merchandise exchanged and money rolled. And the woman, hot with worry, slyly slipped a tin of a stewing steak into the paper bag at her side. Her face was white with fear in case her actions were observed, so she closed her eyes to keep her conscience blind, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. Then she moved toward the exit, clutching tightly at her paper bag. Perspiration trickled down her forehead, her heart had leapt inside her as a hand laid on her shoulder. She was led away, bewildered and amazed. Through her deafened ears, the cash machines were shrieking on the counter as her escort asked her softly for her name. And a crowd of honest people rushed to help a tired old lady who had fainted to the whirling wooden floor, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. Hey. Qualcuno lo avrebbe potuto scambiare per Neil Young, non lo era, naturalmente era un giovanissimo, un primissimo David Bowie agli esordi nel 69 appunto con questo brano, a parte questo, intanto saluto i nostri ascoltatori che si interfacciano con noi su Facebook, che insomma adesso è il più grande social in giro, però insomma stiamo avendo un buon successo anche su Instagram, vediamo un po' di lavorarci bene. Tutto questo non sarebbe possibile, tutto quello che stiamo facendo stasera non sarebbe possibile, non sarebbe stato possibile se il 29 ottobre del 1969 un professore americano non avesse costituito nell'ambito del progetto ARPANET la rete di computer che poi avrebbe preso il nome appunto di Internet. Questo progetto faceva parte del Dipartimento Difesa degli Stati Uniti e il professor Leonard Kleinrock fece appunto dell'Università della California di Los Angeles, riuscì a stabilire il primo collegamento della rete telematica trasmettendo la parola login all'unico altro nodo della rete a quel tempo esistente e funzionante presso lo Stanford Research Institute a circa 500 km di distanza. Questo era un progetto appunto di origine militare che poi ecco ha dato origine a tutto quello che adesso noi possiamo fare, possiamo vedere, possiamo, con cui possiamo interagire. E poi anni dopo insomma sarebbe arrivato il fortunato Zuckerberg che attraverso questa è interessante comunque da dire, perché insomma cioè Facebook nasce esclusivamente per l'acchiappo, lo sapevi Carlo questa cosa, no? Nasce per l'acchiappo perché Zuckerberg e suo amico, due sfigati universitari non sapendo approcciare nel migliore dei modi le ragazze, decisero appunto di stare dietro a un video, a un computer, e misero fuori sto Facebook, quindi che si rifaceva anche in qualche modo all'annuario che generalmente le università americane o le scuole americane hanno, stilano alla fine di ogni anno. Quindi da lì vedevano le ragazze più carine, poi insomma da qui nacque tutto e la cosa gli esplose nelle mani. This is a thing featuring the newly acquired blues name. Blues name, how's that? John Henry Bonham, Moby Dick. We'll be right back. E questo è un brano che insomma dura tantissimo, quasi 15 minuti, e anche qui ritorniamo sul discorso degli assoli celeberrimi. Si tratta del brano dei Led Zeppelin, Moby Dick, è un brano che insomma, come dice il nome, si ispira quasi completamente, anzi si ispira esclusivamente al capolavoro di Melville e alla Balena Bianca, ed è un brano che in quel periodo, nel 69, ma poi anche negli anni 70 è andata per la maggiore, ripeto, sempre fra i cultori di un po' di quella nicchia musicale, perché comunque noi ci dobbiamo sempre ricordare del fatto che la musica si divideva sempre, anche in maniera un po' manichea, come si suol dire, no? Tra quelli che dicevano ma quello è un brano troppo commerciale, quest'altro invece, quindi se è commerciale non è buono, se invece non è ascoltato da tantissimi è invece un brano che vale. La mia esperienza poi mi ha portato a dire che non è sempre così. La musica buona esiste a tutti i livelli, e così come i brani non commerciali sono anche brani brutti e viceversa. In brani commerciali invece, abbiamo citato Burt Bacharach prima, sono brani ottimi. Quindi e la cosa che ho imparato in questi anni è stata proprio capire che la musica bella è bella, la musica brutta è completamente brutta. Noi in quegli anni, ma credo un po' tutti i cultori della musica, spesso ci facevamo prendere da queste botte di intransigenza che poi in qualche modo ci siamo dovuti anche rimangiare, ecco, molti di noi si sono dovuti rimangiare. Ci sono anche quelli rimasti fedeli alla linea e rimanendo sempre lì pronti a criticare magari un brano che vende più di altri. Diciamo che le dinamiche adesso sono completamente cambiate, perché i dischi non si vendono più, la rete la fa da padrona, facendo da padrona la rete in qualche modo però scioglie, dissolve anche gli ascolti, ma allo stesso tempo ci si può far largo e ci si può far conoscere attraverso canali completamente diversi da quelli che erano prima, e quindi adesso di certo ci troviamo di fronte a realtà completamente diverse rispetto all'anno 1969. There are stars in the southern sky, southward as you go. There is moon and moss in the trees, down the seven bridges roll. Now I stars in the southern sky. And if ever you decide you should go, there is a taste of time, sweet and honey, down the Seven Bridges Road. E sicuramente vi ricordo, intanto ricordo che noi siamo in diretta e trasmettiamo da Atri, non diciamo la via perché se qualcuno ci vuole picchiare, quindi meglio che non diciamo da dove, però trasmettiamo da Atri. Atri si trova in Abruzzo, l'Abruzzo è una delle regioni più belle, questo lo dico per chi ci ascolta da fuori regione, naturalmente una delle regioni più belle a nostro avviso d'Italia, insomma, poi noi come cittadina facciamo un po' di autopromozione, ci troviamo sicuramente in una posizione gradevolissima perché siamo a pochissimi chilometri dal mare, e così come siamo a pochi chilometri dalla montagna, e dal Gran Sasso, che è la più alta montagna del centro Italia. E questa cosa mi introduce ad un saluto particolare, che è quello di Adriano Masterbubi, che per un certo periodo, insomma, è stato famoso anche, è quello che ci ha dato una mano per la costruzione del sito, del nostro blog. Ma Adriano è stato un DJ famosissimo che andava per La Maggiore, amico di Jovanotti, insomma di Saturnino, insomma è uno ben introdotto, e la sua particolarità qual è? Che è Atriano, insomma, è uno che noi abbiamo conosciuto tanti anni fa, un po' più piccolino di noi, ma insomma lui già era un disco, è un bravissimo, un ragazzo eccezionale, di un'inventiva eccezionale. Poi lui partì col botto, perché se non ricordo male fu ospite a Maurizio Costanzo, vero? Fu preso anche come in diverse puntate fu ospite fisso di Maurizio Costanzi, insomma noi dicevamo che era uno che conoscevamo, insomma per noi era anche tra virgolette un orgoglio. Tanto che siamo rimasti nella traianità, mi piace ricordare che nel 69 ci fu praticamente il colpo di stato in Libia di Gheddafi. Ora uno dice: ma che c'entra? C'entra perché in quel periodo, durante il colpo di Stato, erano presenti in Libia, nella capitale libica, due cori folcloristici abruzzese, cioè il coro, parte del coro di Atri e parte del coro di Teramo, che erano andati lì per ospiti della nostra ambasciata, per una festa libica, e rimasero lì per quasi un mese, quasi ostaggi dei guerriglieri di Gheddafi, e tornarono qui dopo un mese. Io questa cosa la ricordo con particolare apprensione, perché mio padre stava lì e poi tornò qui in Italia. Quando tornarono, grandi feste, grandi cose, e loro poi ci raccontarono che erano stati comunque reclusi tra virgolette in un albergo di lusso con piscina eccetera, e che poi tutto sommato questa prigionia non era stata poi così, così sgradevole, a parte un po' la paura dei colpi di mitra la mattina della rivoluzione di Gheddafi. Mi sono vestito e sono uscito solo per la strada. A lungo senza meta, finché ho sentito cantare in un bar, che ho sentito cantare in un bar. Canzoni e fumo ed allegria. Io ti ringrazio, sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore. So che sento più caldo il mio cuore. Abbiamo bevuto e poi ballato. È mai possibile che ti abbia già scordato? Eppure ieri morivo di dolore ed oggi canta di nuovo il mio cuore. Carlo, però no. Così è finito male lui, è finito male. Oh, così mi prendete alla sprovvista, mi fate morire. Poi torna quel sogno ricorrente di cui mi stavi parlando prima. Lui, stavamo dicendo che Carlo aveva un sogno ricorrente che mi diceva era quello di che stava in radio e che stava per finire il brano e non sapeva come mixarlo con l'altro perché non aveva fatto in tempo a mettere sul piatto l'altro brano. Quindi qualcuno dall'assù ci ha ascoltato e ci ha fregato, infatti, con lo stesso, ci ha ripagato con la stessa moneta. La compagnia, in questo caso cantata da Vasco Rossi, ma è un brano del 69, quindi insomma ci azzeccava questo brano. Prima di chiudere, siamo quasi ai saluti, io vi volevo così, ricordare qualche avvenimento, diciamo, importante di questo anno. Di alcuni abbiamo già parlato, ma ad esempio il 16 gennaio a Praga, per protestare contro l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, Jan Palach si dà fuoco. Oppure ecco, il 24 febbraio viene lanciata la quinta sonda diretta verso Marte, e qui insomma arriviamo anche un po' a cose che poi fanno parte anche del nostro passato proprio prossimo. E mentre a Tolosa il 2 marzo c'è il primo volo del Concorde, mentre la NASA lancia la missione il 3 marzo dell'Apollo 9. L'Apollo 9 che torna poi il 13 marzo indenne dalla missione lunare, e mentre una cosa che mi piaceva ricordare, che il 5 aprile del 69 è approvata la legge 119 di riforma dell'esame di maturità, e quindi all'esame si presentano solo 2 materie allo scritto e 2 all'orale, non più tutte le materie. E come vedete la scuola, ecco, dal 69 si comincia anche ad avere questa nuova, poi ci saranno i decreti delegati, insomma ci sarà tutta una piccola rivoluzione in cui si tenta di fare entrare anche lo studente nella gestione scolastica. Insomma, non so se ci siamo riusciti fino alla fine, ci siamo riusciti in modo tangibile, o se queste riforme abbiano fatto più male che bene. Insomma, a voi l'ardua sentenza, per me rimane tutto in sospeso. E in sospeso fino a giovedì prossimo, quando ci sarà questa terza puntata di Schegge Impazzite, condotta dal sottoscritto e naturalmente co-condotta da Carlo, che è qui vicino a me, da Carl Bartel Boom, e siamo quelli di Radio Cerrano, e vi abbiamo detto stasera anche da dove trasmettiamo. Vi ricordo che ci potete trovare su Facebook, ci potete trovare su alcune piattaforme musicali come TuneIn, Radio Garden o Radio.net, o addirittura Listen to My Radio. E niente, abbiamo salutato tutti, salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri amici che ci seguono tramite Facebook e quelle anche che ci seguono tramite le piattaforme musicali. L'appuntamento è, come vi dicevo prima, per giovedì, a un'altra scheggia impazzita. Poi insomma in settimana vi comunicheremo il nome della scheggia. Vi lasciamo con uno splendido brano, a mio avviso sempre del 69, un splendido brano poi rivisitato da George Harrison e Eric Clapton, in questo caso appunto l'ascolterete da questi due splendidi musicisti. Il brano naturalmente è di George Harrison. Una buona serata, una buona nottata a tutti, a risentirci a giovedì. Give me